guardate che per diventare santi si dice Santa Bernardetta Subirù, la Bernardetta di Lourdes, morta a 33-34 anni. Lascia come ricordo, quasi testamento. Se volete diventare santi, sempre con voi un pizzico di buon umore, alta marea, nell'alta marea tu non vedi più i tuoi fallimenti, tutti i cocci non li vedi più perché c'è sopra un metro e anche a volte di più di acqua, l'alta marea copre tutto, quando siamo in bassa marea diventiamo tristi con quella puzza, con l'alito triste proprio dello scoraggiamento, su. Vedete che cosa vi raccomando? Siate sempre su di giri. Ma non si può mica esserlo sempre. Sì che si può. Non siamo mica soli, c'è lui. Non temete, sono io con voi. E quando mise i piedi nella barca degli apostoli, il mare di Genezaret si acquietò e un baleno, nonostante la tempesta, arrivarono in porto. Quando c'è lui, nulla ci turba, nulla ci inquieta. Altri si mettono le mani nei capelli per una cosa da niente, una cosa a volte anche soltanto sospettata e temuta, ma ipotetica, irreale. Con un pizzico di buon umore si acquietano le onde, torna il sereno e l'alta marea copre tutto. E tutto è bello, ma quando c'è la bassa marea, scusatemi, chiudete pure i vetri e anche tappate il naso e le zanzare e tutto il resto, per carità, bassa marea, quando uno è di bassa marea è capace di qualunque sbaglio. Io quando ho soccorso dei suicidi ho saputo sempre che questo sbaglio enorme l'avevano fatto perché giù di marea, bassa marea, bassa marea, si disprezza tutto, anche la vita, niente, niente, voi sempre alta marea. Come ho insegnato ai nostri ragazzi, certi miei ragazzi cantavano sempre con voce, tono basso. Dico, ma c'è qualche decrepito qui tra voi? Quanti anni hai tu? 13? Tu 14? Tu 18? E cantate come vecchi decrepiti. È contro l'educazione cristiana. È antipedagogico, anticristiano. Noi dobbiamo cantare sempre a tono alto, il volume sarà secondo le possibilità di ciascuno, vero? C'è qualcuno di voi che ha una cassa di risonanza, c'è chi invece, poverino, è mingherlino come un palo, e va bene, ma il tono, io dico, il tono, alto, alto, su di marea, marea, alta marea, alta marea. E una santa di Brescia, la fondatrice delle Ancelle della Carità, Santa Crocifissa di Rosa, diceva alle sue suore, fondatrice lei, non voglio vedervi mai col collo torto o giù con la testa bassa, imbronciate. Il Signore vuole essere servito allegramente. È giusto, così hanno ragionato i santi e così ti hanno insegnato dopo aver provato loro. Vedete dunque di aver sempre con voi questo pizzico di buon umore, di serenità, di coraggio, sempre, nonostante tutto, vi ripeto, nonostante tutto. Il Signore ha voluto così, che i Suoi fossero sereni, tranquilli, contenti, nonostante le onde contrarie, il vento contrario, il buio della notte o la fame dello stomaco. Mia povera zia Elisa, quando ero ragazzino, una volta due la settimana mi mandava dal tabacchino a comprare il tabacco da naso e lei nella tasca dove metteva la corona del rosario aveva sempre questo cartoccino di tabacco da naso. Zia, come mai sei così devota del rosario e del tabacco da naso? Difatti la corona sapeva un po' di tabacco, perché nella stessa scarsella dove c'era la corona c'era dentro anche questo tabacco da naso, questo cartoncino. Guarda, dice, quando io ho un po' di mal di testa, ho un po' di tosse, quando mi prende un po' il sonno, o quando il sonno non viene, allora io annuso un pizzichino e mi passa tutto, mi passa tutto. Con quel pizzichino, zinzino, di tabacco da naso, la zia recuperava energia, vita, canterellava, era felice. Adesso non vi dico mica di andare a comprarvi tabacco da naso, è passato di moda. Però un cartoncino di buon umore, quello sì. Quel cartoncino di buon umore abbiatelo sempre. Quando il tempo è buono e quanto il tempo è brutto. Quando avete salute da vendere e quando vi tocca andare a comprare dai medici o dall'ospedale. Sempre un pizzichino di buon umore, quello fa passare il mal di testa. E ce ne sono di tante specie di mali di testa. A volte il mal di testa ce lo mettiamo in testa noi. Quante cose a volte ci fanno venire il mal di testa che potremmo cacciare di casa certe stupidaggini. Comunque, un pizzichino di buon umore fa passare sempre qualunque tipo di mal di testa. Così diceva la mia povera zia Elisa, che mi ha tanto aiutato a diventare sacerdote, e ha educato in me il buon senso. È buon senso cristiano questo.